la Libia si trovava sotto il tallone delle forze fasciste. I soldati del Duce scorrazzavano in ogni angolo del paese. Avevano ucciso metà della popolazione, alzato una grande quantità di forche, riempito le prigioni e sequestrato le proprietà, tenendo per gli italiani le terre migliori. Dopo un quarto di secolo di guerra contro un popolo che aveva con sé solo la fede, l'Italia poté avere la propria quadratura su questa sponda del Mediterraneo. Dandosi arie di romanità, i colonialisti si fregavano le mani sporche di sangue e di infamia mentre andavano dichiarando che avrebbero fatto tornare l'auge dell'impero romano sulle rovine di un popolo insubordinato. E Balbo, col suo pizzetto a punta e la sua boria posticcia, se la spassava attaccando brighe o andando a caccia nel deserto con ogni sorta di cani al seguito. Con il suo aereo privato compiva ardite imprese tra gli alberghi delle montagne e quelli della costa, alberghi che lui stesso aveva fatto costruire secondo lo stile più moderno, alberghi verdi, rossi, azzurri, tutti riempiti dei mobili e dei letti più sfarzosi. Lì il governatore passava lunghe, calde notti con le sue donne. Non faceva che spostarsi da uno svago all'altro, da un albergo in stile romano a un altro, da Jefren a Nalut, da Waha a Gadames a Shahat. Le amanti gli arrivavano da Roma, Vienna, Napoli, Milano, dai cabaret degli Champs-Élysées di Parigi, ogni tipo di bellezza a pagamento per l'erede della grandezza romana. L'unica orientale era Huria, la danzatrice. Uno dei cani da caccia di Balbo l'aveva scovata per lui in qualche cabaret nordafricano. Alla ragazza mancava un filo di seta per il suo vestitino o la sua acconciatura? Ecco che l'aereo privato partiva dall'aeroporto di Gadames o di Tripoli alla volta di Roma e in meno di 2 ore il filo di seta richiesto era sull'orlo del vestito o avvolto tra i capelli alla luce tenue delle candele, tra il marmo più sfarzoso e decorazioni in stile antico. In questo clima romanticheggiante, Balbo, il governatore della Libia colonizzata, trascorreva lunghe ore a bere avidamente dal calice mentre si sognava ragazzo d'oro dell'impero. Era pazzo in ogni cosa, era pazzo nei suoi voli, era pazzo nella sua camminata piena di sé, nei suoi sogni d'oro e di sangue. Il colonialismo obbligava la gente ad assistere alle feste che Balbo organizzava per mettere in mostra i propri soldati o perché si rendesse onore alla bandiera tricolore. Il governatore aveva poi dato avvio ai preparativi per la visita del duce Benito Mussolini, il condottiero dalla giugulare sempre gonfia. Così si era messo a tenere riunioni nel suo palazzo assieme a un pugno di persone reclutate con ogni sorta di espedienti, col denaro, con la minaccia armata, col terrore. Le radio interruppero le loro trasmissioni per trasmettere una notizia urgente. Le vedove, gli orfani, tutti quelli che erano stati colpiti nelle loro famiglie e nelle loro cose, i ragazzi obbligati a iscriversi alle milizie, tutti si portarono le mani al petto. Una notizia urgente sta per essere trasmessa. Chissà, forse la liquidazione di quel che restava della popolazione, o magari altre navi cariche di migliaia di coloni, di quelli che arrivavano scarsi, nudi, affamati da Napoli o dalla Sicilia a coltivare le migliori terre di Libia, o forse un altro arruolamento forzato, l'invio di altri ragazzi in plotoni su qualche campo di battaglia in difesa dell'impero romano o per la sua espansione su un altro fazzoletto di terra. Avrebbero compiuto nuovi rastrellamenti? Avrebbero deportato ancora migliaia di persone delle città costiere e delle tribù nomadi all'interno di campi di concentramento, dietro il filo spinato, nelle oasi, nei Widian? Progettavano forse di portare altre persone alla Guajira? I punti interrogativi danzavano, una danza macabra nelle menti e sui volti. Si trattava di una lieta notizia, annunciò la radio. Forse l'impero italiano si era espanso di un altro tassello? Era questa la bella notizia per loro? Prima dell'annuncio fu suonato l'inno dell'impero, mentre la gente si preparava a ricevere il comunicato. Sua Eccellenza il Governatore Balbo ha dichiarato che il Duce visiterà Tripoli. Un mormorio corse tra gli occhi e le labbra della gente radunata a fronte. Il governatorato già stampava grandi manifesti recanti la foto del capo italiano, raffigurato in alcune con il suo elmetto militare, mentre si esibiva in movimenti convulsi, e in altre fermo nelle sue pose da oratore isterico. Sua Eccellenza inoltre ha affermato che sarà formata una commissione per le celebrazioni, scelta tra i notabili e i grandi nomi. Si riaprirono molte memorie dolorose ormai cicatrizzate. Gli animi tornarono a tremare, scossi dai sospiri. Le forze occupanti presero a radunare alla corte del colonialismo gli sciaic, i notabili e una serie di infami professionisti dell'ipocrisia. Tutti furono condotti al municipio, avvolti nei loro abiti più sfarzosi, ma a testa china. Nei cuori di alcuni di essi c'erano discorsi che avrebbero fatto saltare la loro testa dal collo se solo fossero affiorati alle labbra. Il commissario generale, fiancheggiato dal segretario alle opere pubbliche e da un interprete, si sedette e cominciò a blaterare il lungo, solito discorso, già sentito fino al disgusto, le lodi per l'Italia, la civiltà colonizzatrice, la modernizzazione del paese, negli occhi di quelli che lo ascoltavano si potevano intravedere i pali delle forche, le mura delle prigioni, decine di migliaia di dispersi nel deserto. Furono informati del programma per la visita del Duce. Il commissario assicurò loro che l'accoglienza sarebbe stata degna della grandezza d'Italia e della sua superiorità, oltre che del suo capo. Nei piccoli paesi e nell'interno cominciarono le operazioni di concentramento con lo scopo di arruolare i ragazzi libici che avrebbero urlato e applaudito ai lati della strada con l'obbligo di scandire "Tu c'è, tu c'è, tu c'è". Molti sciaic e molti anziani si diedero alla macchia nel deserto pur di non dover posare gli occhi su colui che aveva versato il sangue dei loro figli, che aveva rubato la libertà al loro popolo. Altri non osarono fuggire, lasciando i figli come ostaggi nelle mani degli italiani. I vari segretari di Balbo si adoperarono per irreggimentare i bambini delle scuole e i ragazzi che avrebbero dovuto indossare le camicie nere. Vi finirono per rubare anche le foglie, i rami di palma dai giardini per farne archi di trionfo. I figli dei nomadi furono costretti con la forza e le minacce a fiancheggiare la parata in schiere ordinate. Passarono notti in attesa del corteo del padrone della grandezza e della gloria di Roma, con solo qualche tazza di tè nero o amaro e un tozzo di pane secco da mangiare, più un pezzo di bashmat se erano generosi con loro. Per dormire usavano i lembi dei loro stessi abiti a mo' di cuscino, in perenne attesa. Non c'era via di fuga, non c'era scappatoia, si poteva solo ripetere in segreto la formula da Hawa la Kua illa Bialla. Non c'è potenza né forza se non in Dio. Cooptarono gli sciaic delle confraternite con i loro tamburi e le loro insegne e i loro deliqui mistici. Alcuni ipocriti codardi li incoraggiavano a battere i tamburi, a dimenarsi, a cadere in estasi, in cambio di ciotole di basin preparato con la farina e il frumento rubati alla gente. Altri vennero addirittura pagati in franchi per far rullare i tamburi o per bruciare incensi. Camicie nere indosso e manganelli in mano, pretendevano dalle donne, giovani e anziane, che trillassero di gioia. La gola però si seccava a chi doveva trillare. Ieri lo avevano fatto in onore dei cavalieri che combattevano per la resistenza. Come potevano farlo oggi per accogliere quel macellaio? Il risultato, più che un trillo di gioia, era un fischio lamentoso, misto alle lacrime che scendevano dagli occhi delle donne, assieme alle loro invocazioni segrete: rovina all'Italia e ai suoi soldati. Per As si trovava nella sua bottega, nel mercato del Mashir, augurandosi tra sé e sé che una vettura lo investisse o che la terra lo inghiottisse prima di dover assistere alla parata del Duce. Ogni giorno prendeva tutti i volantini e i giornali pubblicati dalla segreteria di Balbo. Quindi, dopo aver chiamato in casa i bambini ed essersi assicurato che le finestre fossero ben chiuse e la porta sprangata, sputava sulla foto del governatore e del duce, il suo gran capo. Tirava poi fuori un fiammifero, riduceva giornale, volantini e fotografie in piccoli pezzi e dava il tutto alle fiamme, celebrando così la distruzione di quelle maledette immagini. Bambini, diceva, loro sono i vostri nemici, l'Italia ci ha espropriato delle nostre cose, ha riempito le nostre terre di porche, sono loro che hanno ucciso vostro nonno e vostro zio. Il padre di Feras, in effetti, se n'era andato durante la battaglia di Al-Hani e i suoi fratelli durante quella di Al-Sahel. Lui ne aveva ricevuto una ferita che non si era rimarginata. Con le lacrime agli occhi baciava i suoi figli e raccomandava loro di non far sapere a nessuno cosa faceva e diceva ogni giorno. Una sera il più piccolo venne da lui tutto contento, chiedendogli di ascoltare il nuovo inno che aveva imparato a memoria quel giorno a scuola. Roma, non vorremmo che servire Roma. Lo schiaffo di Feras fece voltare la testa al bambino, che scoppiò a piangere. Ma Feras lo perdonò, lo abbracciò e, asciugandogli le lacrime, gli sussurrò all'orecchio: figliolo, l'Italia è la nostra nemica. Gli italiani hanno ucciso tuo nonno. I loro proiettili hanno falciato i tuoi zii. insegnò loro un altro inno, un inno partigiano, ma si assicurò che lo tenesse per sé e che non lo facesse sentire a nessuno, perché non sfuggisse di orecchio in orecchio. Andò poi dal dottore e con un pretesto si fece scrivere un certificato che dimostrasse che il figlio era malato e aveva la febbre. Lo fece per non farlo assistere al corteo. Non voleva che stesse in piedi assieme ai poveretti che il palazzo di Balbo spediva a ripetere cori di benvenuto al duce. Ferras confezionava magistralmente eleganti selle arabe per le quali sceglieva pelli e tessuti della miglior qualità. Nel suo negozio, appoggiata sullo scaffale, c'era però una sella che aveva più a cuore delle altre, una sella carica di memorie sacre che lo riportava ogni giorno, ogni volta che la guardava, a un passato a cui era legato profondamente. Suo padre l'aveva utilizzata durante una battaglia della resistenza. Un proiettile attraversandola aveva lasciato un foro attorno al quale era ancora visibile un alone di sangue rappreso. In quella battaglia suo padre era morto. Teneva per sé quella storia, la raccontava solo ai parenti e agli amici più stretti. Ogni giorno riservava uno sguardo a quella sella, allungava una mano per voltarla, la osservava brevemente e in silenzio. In quei momenti desiderava soltanto che i suoi bambini si facessero ragazzi per poterli mandare in qualche altro paese arabo a respirare liberamente, lontano dalle gambe dei fascisti, dai loro piedi pesanti, dai loro cani da caccia. Il suo mestiere aveva permesso a lui, che aveva studiato alla scuola islamica di arti e mestieri, di cucire e decorare ottime selle per quei cavalieri che combattevano nel deserto, in groppa ai loro puro sangue. Ma dove erano ora quegli uomini falcidiati nelle battaglie della resistenza? Avevano lasciato dietro di sé un paese arido dopo una primavera di cavalleria ed eroismo. La nebbia fascista si era stesa su una linea ormai logorata in cui i cani da caccia potevano compiere le loro scorribande. E quanto odiava dentro di sé che fossero proprio quegli italiani, man mano che passavano i giorni, ad ammirare la finezza della sua produzione, a stupirsi per la perfezione delle decorazioni. Non fosse stato per mantenersi in vita, Ferras non avrebbe venduto loro niente. Giorno Ferras si trovava nel suo negozio, indeciso sul da farsi. Sulla soglia si era fermato un brutto ceffo, una di quelle facce odiose che non avrebbe nemmeno voluto guardare. Costui era un cavalier, come erano chiamati dai libici i collaborazionisti, quelli che con la loro ipocrisia erano riusciti ad avvicinarsi alla cerchia di Balbo e Badoglio, recandosi anche più volte a Roma a fare il lacchè durante le parate del duce. Ferras odiava anche solo di dover posare gli occhi su uno di quei personaggi e infatti evitava di guardarli in faccia. Adesso però eccone lì uno che osservava attentamente la bottega, zoppo, appoggiato a un bastone dal manico intarsiato, con in testa un cappello da italiano. Pagliaccio deforme aveva rinnegato le sue origini e ostentava un italiano ostentato e scorretto. Quando lo vide entrare nel negozio per As, fece gli scongiuri. Sua eccellenza il cavalier tese il braccio nel saluto fascista con la mano guantata di velluto. Poi riprese a osservare i vari modelli di selle e di pomelli in pelle. Alla fine, con il bastone, indicò una delle selle e disse: «L'hai fatta tu questa?» «Sì», rispose secco Ferras. «Io ti conosco, Ferras. Abbiamo un dossier intero su di te e i tuoi parenti al governatorato. Eravate di quegli arabi che si erano messi contro gli italiani, non è così?» Quelle parole spaventarono Ferras, che si vide scorrere davanti le immagini dei suoi figli, della galera, della forca. Ancora gli stavano dietro gli italiani, dopo averli imprigionato e espropriato dei suoi soldi e della sua proprietà. Ferras si dominò e trattenne i nervi. Il cavaliere proseguì: «A quanto pare sei fortunato, ho un'occasione d'oro per te». Ferras continuava a tacere in attesa di vederci chiaro. Era ancora in piedi, con il punteruolo in mano e la voglia di cavarglieli quegli occhi orbi e sporgenti, ma portò pazienza aspettando che l'altro andasse avanti. «Saprai certamente che il duce visiterà la Libia e sai anche quanto il paese sia lieto della visita del capo. E dunque si terrà una cerimonia durante la quale Sua Eccellenza il Governatore Balbo intende offrire una sella di fattura araba al duce che monterà su di essa a cavallo. Ebbene, la scelta è caduta su di te, che sei il miglior fabbricante di selle arabe». Ferras schinò la testa, colpito come da un uragano. «Per tua somma fortuna, il dono sarà opera tua, un onore immenso. Ma dov'è la foto del duce? Com'è che non hai appeso la foto del duce?» Lo disse come se fosse riuscito a trovare il filo che avrebbe portato Ferras dritto alla forca. «Ti ho chiesto come mai non hai appeso la foto del duce?» disse di nuovo. «Su muri e sulle vetrine non vedo la foto del capo, dell'eroe di Roma». A quel punto Ferras uscì dalla sua bolla di silenzio, ancora sforzandosi di tenere a freno i nervi, col terrore che la lingua lo tradisse e facesse affiorare i suoi veri sentimenti. Si fregò le mani, puntò gli occhi in quelli del cavaliere e rispose: «Ogni sera facciamo una cerimonia per la foto del duce a casa. La foto del duce è sempre nei nostri cuori». Se avesse saputo il cavaliere quale cerimonia riservava Ferras all'immagine di quel macellaio. «Ad ogni modo, mi raccomando, hai ancora solo pochi giorni. Il paese è pronto a onorare il capo e persino Sua Eccellenza il Governatore sta nel suo ufficio fino a tardi per controllare la stesura del programma. È in base ai suoi ordini che pretendo da te una sella perfetta. Sua Eccellenza Balbo passerà personalmente qui nella tua bottega. È un uomo modesto, ama il souk arabo». Ferras tornò a casa pensando al maledetto vicolo cieco in cui lo avevano cacciato. Lui, figlio di combattenti della resistenza, vittima tra le tante del fascismo, uno a cui il fascismo aveva smembrato la famiglia, avrebbe dovuto fare una sella per Mussolini. Non bastavano tutte quelle che aveva fabbricato e che si erano presi gli italiani. Non riusciva a prendere sonno quella notte, quando all'improvviso sentì bussare alla porta. I rintocchi alle porte dei combattenti e dei loro figli potevano pronunciare l'esilio o l'impiccagione in quell'epoca nera. La moglie di Ferras, terrorizzata da quel lungo bussare, da quei colpi spaventosi, e si agitò ancora di più quando si affacciò alla finestra e vide un soldato italiano accompagnato da altra gente mise a chiarire la faccenda ed ecco il cavaliere che gli diceva sussurrando: ecco qui la pelle di prima scelta, il tessuto con cui farai la sella. Hai 3 giorni. Io ho già informato Sua Eccellenza il governatore Balbo, il quale ti invita a lavorare bene e in fretta. Tacque con 1000 pensieri che gli crullavano in testa nel petto. Il cavaliere che lo stava osservando si accorse, grazie al suo istinto da infame, che esitava. Feras, gli fece aspro, è la tua unica occasione. Ho in tasca una lista piena di nomi armi. Un tratto di penna e ci finisci dentro. Sai che so come farti fuori. Degli ipocriti e degli opportunisti si snodava per il paese. Il governo fascista diffondeva volantini chiamando ad accogliere l'eroe dell'impero. Alcuni loschi individui presero a girare per i quartieri popolari che avevano dimostrato completa noncuranza per la visita del duce, rifiutandosi di mettere in strada qualunque decorazione. Misero a minacciare, agitando i manganelli, aggiungevano sempre nuovi nomi alle liste degli arrestati o dei sospetti. Chiudete i negozi, urlavano, sprangate le botteghe, tutti fuori ad accogliere il capo, altrimenti vi bruciamo le baracche con chi c'è dentro. I cuori degli abitanti si riempivano di rancore, mentre si chiedevano in petto migliaia di invocazioni. Feras assistette a una quantità di scene simili. Nel frattempo la sella l'aveva costruita, e bene. Venne il giorno della celebrazione. Grandi masse di persone furono radunate in reggimenti e spedite a forza ai 4 angoli di uno spiazzo che si stendeva a ovest di Tripoli. I soldati fascisti ci avevano trascinato gruppi e file di persone fin dall'alba, alcuni già da 2 giorni. Fecero venire anche il tizio che avrebbe dovuto offrire a Mussolini la spada dell'Islam. Tremavano e trattenevano il fiato come fanno le prede. Si levarono le trombe e le grida dei soldati fascisti. Quel che nessuno sapeva è che Feras, nella più completa segretezza e con la massima attenzione, aveva innestato nella sella un chiodo appuntito. Meccanismo l'avrebbe fatto scappare, saltare non appena il condottiero vi si fosse seduto sopra. Come il duce con la sua solita boria sedente a cavallo, subito il chiodo scattò e gli perforò le terga. Il duce urlò: paonazzo! Mentre Balbo e i gerarchi fascisti stavano al suo fianco. Il suono dell'urlo di Mussolini si perse nella confusione di voci e di urla. Il chiodo lo aveva ferito a sangue e la gente non se ne rendeva conto. La folla si era convinta che quelle grida fossero le sue solite grida, i suoi urli isterici da oratore, e continuava a inneggiare e a battergli le mani. Intanto quelli che gli stavano intorno cercavano una soluzione, mentre lui bestemmiava e lanciava maledizioni, assaggiandosi il punto in cui il chiodo l'aveva colpito. Qualche ora dopo, Feras veniva condotto in carcere. Nessuno sa quale destino gli abbiano riservato. Nessun libico sa quale sia stata la sua fine, se in fondo al mare o stretto alla corda della forca, mentre lo portavano alla galera o forse all'esecuzione, teneva stretta la sella di suo padre, baciava quel tallone sacro di sangue su di essa.